Abbiamo lavorato molto in questi mesi, siamo arrivati fin qui con il contributo di tanti. Lanciamo 11 tavoli tematici che si riuniranno nei prossimi giorni e alcuni eventi importanti con degli ospiti di livello nazionale che saranno qui a Bologna prima del 20 di giugno. Sarà l'occasione per costruire insieme una proposta per la città e presentare i punti fondamentali della nostra idea di città che punta al diritto alla salute e al sostegno alle persone più fragili, mettere al centro il lavoro in uscita da questa pandemia, la svolta verde per Bologna e soprattutto il sostegno ai giovani e alla scuola. Attorno a questi quattro temi abbiamo deciso di mettere in campo diverse iniziative e progetti che vi presenteremo per poi, dopo le primarie, individuare un luogo fisico, abbiamo già qualche idea, dove aprire la fabbrica del programma e sarà un luogo dove tante persone, migliaia di persone si potranno riunire e dare il loro contributo. Chiamerebbe Romano Prodi a darle una mano per la fabbrica del programma, visto che il brand di Prodi, diciamo. Diciamo che grazie al professor Prodi in questi mesi ho avuto la possibilità di utilizzare il nome e quindi la nuova fabbrica del programma è di fatto un'eredità dell'Ulivo e sicuramente sarei molto felice se il professor Prodi fosse presente. Al di là di questo, insomma, ci saranno tante competenze. Bologna è una città ricca di competenze e il nostro è un progetto largo con tantissimi movimenti, associazioni. Mi piace l'idea che abbiano partecipato e stiano partecipando tante imprenditrici, tanti imprenditori, tante associazioni, tante persone che lavorano nel mondo dell'università, tantissimi giovani. Noi abbiamo lanciato il movimento Incontra Bologna, hanno aderito più di 2.400 persone, oltre 300 di loro hanno meno di 25 anni. Abbiamo 90 comitati di zona. Questo viaggio che sto facendo per la città mi ha fatto riscoprire quante energie ci siano e voglio dire ai bolognesi che dobbiamo uscire da questa pandemia credendo in noi stessi. Bologna è una città super, e deve superare se stessa migliorando.